Capitolo 14 da Mone e Pizia. Mamma Baer aveva ragione. La pace non era che una bonaccia momentanea. Si preparava una tempesta e due giorni dopo la partenza di Bess un terremoto morale scosse Plumfield dalle fondamenta. La causa principale furono le galline di Tommy, perché se non si fossero ostinate a fare tante uova, egli non avrebbe fatto tanti soldi vendendole. Il denaro è la radice di ogni male. Eppure è una radice così utile che non possiamo farne a meno, più di quanto non possiamo fare a meno delle patate. Né lo poteva certo Tommy, abituato a sperperare i suoi incassi, tanto che papà Baer dovette insistere per farglieli depositare in una cassa di risparmio, e gliene offerse una egli stesso, un imponente edificio di latta col suo nome scritto sulla porta e un alto camino entro il quale dovevano scendere le monete per risuonare là dentro in modo provocante finché non fosse permesso di aprire una specie di trabocchetto nel fondo. La cassa aumentò di peso così rapidamente che Tommy fu ben presto soddisfatto dei suoi investimenti e progettò di comperare inauditi tesori col suo capitale. Registrava le somme depositate. Gli avevano promesso di lasciargli rompere la banca salvadanaio non appena fosse arrivato a possedere $5, purché spendesse il denaro in maniera ragionevole. Non mancava più che $1, e il giorno in cui mamma Jo gli pagò 4 dozzine di uova, fu così felice che corse nel capannone per mostrare le belle monete lucenti a Nat, che anche lui metteva da parte i suoi guadagni per comprarsi il tanto desiderato violino. «Potessi averli anch'io, allora con gli altri 3 mi mancherebbe poco per comprarlo», disse guardando con tristezza il denaro. «Chissà che non te li possa prestare, non ho ancora deciso che cosa farò coi miei soldi», disse Tommy buttando in aria le sue monete e riacchiappandole al volo. «Su, ragazzi, venite al ruscello a vedere che bella biscia ha preso Dan», gridò una voce di dietro il capannone. «Andiamo», disse Tommy, e ponendo il denaro dentro il vecchio vaglio, corse via, seguito da Nat. L'esame della biscia fu molto interessante. Poi una lunga caccia a una cornacchia zoppa e la sua cattura assorbirono talmente il cervello e il tempo di Tommy che non pensò più al suo denaro finché non fu a letto. Poco male, c'è soltanto Nat che sa dov'è. E il ragazzo bonaccione si addormentò tranquillamente, punto preoccupato per i suoi tesori. La mattina dopo, proprio quando i ragazzi si riunivano per la scuola, Tommy si precipitò tutto affannato nell'aula chiedendo: «Dite un po', chi ha preso il mio dollaro?» «Di che stai parlando?» chiese Franz. Tommy spiegò la cosa e Nat confermò il suo racconto. Tutti dichiararono di non saperne nulla e cominciarono a guardare con sospetto Nat, che quanto più negava, tanto più si faceva rosso e confuso. «Qualcuno deve pur averlo preso», disse Franz, mentre Tommy li minacciava tutti coi pugni, dichiarando infuriato: «Tuoni e fulmini! Se faccio tanto di acchiappare il ladro lo concio, in modo che se ne ricorderà per un pezzo!» «Calmati, Tom, lo scopriremo. I ladri la pagano sempre, prima o poi», disse Dan, con l'aria di chi la sa lunga in materia. «Può essere stato qualche vagabondo che abbia dormito nel capannone?» suggerì Ned. «No, Silas non lo permette, e poi un vagabondo non sarebbe andato a cercare del denaro in fondo a quel vecchio arnese», disse Emil con disprezzo. «E se fosse stato Silas?» disse Jack. «Questa è bella. Il vecchio sì, è l'onestà in persona. Non toccherebbe un soldo», disse Tommy difendendo energicamente il suo principale ammiratore. «Chiunque sia stato, farebbe meglio a dirlo senza aspettare di essere scoperto», consigliò Demi, che pareva considerare il fatto come una tremenda sciagura piombata sulla scuola. «Lo so che credete che sia stato io», proruppe Nat rosso ed eccitato. «Tu sei l'unico che sapesse dov'era». «Io non ci posso nulla, ma non sono stato io, vi dico che non sono stato io», gridò Nat disperato. «Piano, piano, figliolo, che cos'è tutto questo strepito?» chiese papà Baer avanzandosi fra loro. Tommy ripeté la sua storia e di mano in mano che ascoltava papà Baer si faceva sempre più serio, perché nonostante tutti i loro difetti e le loro monellerie i ragazzi fino allora erano sempre stati onesti. «Sedetevi», disse, e quando tutti ebbero occupato il loro posto aggiunse lentamente, posando su ciascuno uno sguardo addolorato più difficile da sopportare di una tempesta di parole: «Ora, ragazzi, rivolgerò a ognuno di voi una sola domanda. ed esigo una risposta sincera. Non intendo spaventarvi, né corrompervi, né strapparvi la verità, perché tutti avete una coscienza e sapete a che cosa serve. Bisogna che ripariate il danno fatto a Tommy e vi scagioniate di fronte a noi tutti. Io posso perdonare a chi ha ceduto a un'improvvisa tentazione, molto più facilmente che a chi tenta di ingannarmi. Non aggiungete una menzogna al furto, ma confessate francamente e cercheremo tutti di aiutarvi a far sì che vi perdoniamo e dimentichiamo il vostro errore. Tacque un istante e si sarebbe sentita volare una mosca, tanto era il silenzio nella stanza. Poi rivolse lentamente e gravemente la domanda a ogni ragazzo, ricevendo da tutti, in toni diversi, la stessa risposta. I visi erano rossi e sconvolti, quindi non poteva valersene come prova, e alcuni dei più piccoli erano tanto spaventati che balbettarono le due parole come se fossero colpevoli, sebbene apparisse chiaro che non potevano essere stati loro. Quando arrivò a Nat, la sua voce si raddolcì, perché il povero ragazzo sembrava tanto infelice che papà Baer soffriva per lui. Lo credeva colpevole e sperava di salvarlo da un'altra bugia, inducendolo a dire la verità senza timore. «Ora, figliolo mio, rispondi francamente, l'hai preso tu il denaro?» «No, signore», rispose Nat, alzando gli occhi supplichevoli verso di lui. Mentre quelle parole cadevano dalle sue labbra tremanti, qualcuno fischiò. «Finitela!» gridò papà Baer, battendo il pugno sulla scrivania e lanciando un'occhiata severa verso l'angolo da cui il fischio era partito. C'erano là Ned, Jack ed Emil. I due primi sembravano vergognarsi di se stessi, ma Emil esclamò: «Non sono stato io, zio, io mi vergognerei di colpire un individuo che è a terra». «Bene», disse Tom, molto rattristato per la tragedia causata dal suo disgraziato dollaro. «Silenzio!» ordinò papà Baer, e quando la calma fu ristabilita, continuò in tono molto serio. «Mi rincresce molto, Nat, ma le apparenze sono contro te, e quel tuo difetto ci induce a dubitare della tua parola, più di quanto faremmo per ragazzi che non hanno mai mentito. Ma intendimi bene, ragazzo mio, io non ti addebito ancora questo furto, e non ti punirò finché non sia perfettamente sicuro, né ti farò altre domande. Lascerò che tu te la sbrighi con la tua coscienza. Se sei davvero colpevole, vieni da me in qualunque ora del giorno o della notte a confessarlo, e io dimenticherò e ti aiuterò a correggerti. Se sei innocente, la verità presto o tardi verrà a galla, e quel giorno io sarò il primo a chiederti perdono per avere dubitato di te e mi adopererò con tanta gioia a riabilitarti agli occhi di tutti». «Io non sono stato, non sono stato», singhiozzò Nat, tenendo la testa fra le braccia per evitare gli insopportabili sguardi di avversione che leggeva negli occhi fissi su di lui. «Voglio sperarlo». Il professore fece un'altra breve pausa, come per dare al colpevole, chiunque fosse, l'occasione di parlare. Ma quel glaciale silenzio fu rotto solo da qualche sospiro di simpatia dei piccoli. Scosse allora la testa e aggiunse dolorosamente: «Qui non resta più nulla da fare, ma questo ancora voglio dirvi. Non parlerò più di quanto è accaduto e desidero che tutti facciate altrettanto. Non posso pretendere che i vostri sentimenti verso il compagno che credete colpevole restino gli stessi di prima, ma conto e desidero che non lo tormentiate in modo alcuno. La sua condizione sarà assai dura anche senza di ciò. E ora, alle vostre lezioni». «Papà Baer ha mollato troppo presto con Nat», mormorò Ned a Emil mentre tiravano fuori i loro libri. «Chiudi il becco», brontolò l'altro, che sentiva quella faccenda come una macchia sull'onore della comunità. Molti dei ragazzi la pensavano come Ned, eppure papà Baer aveva ragione. Nat avrebbe fatto meglio a confessare subito e a farla finita, perché anche le più tremende frustate che riceveva da suo padre erano molto più facili da sopportare di quegli sguardi freddi e dell'essere sfuggito e circondato dal sospetto. Se mai un ragazzo fu messo al bando, quello fu il povero Nat, che soffrì una settimana di lenta tortura, sebbene non una mano si fosse levata contro di lui, non una parola dura gli fosse stata detta. E questo era il peggio. Se almeno avessero parlato apertamente, o lo avessero anche bastonato di santa ragione, lo avrebbe sopportato meglio di quella muta diffidenza che gli rendeva così terribile ogni volto. Perfino in mamma Baer ce n'era traccia. Nonostante l'apparente immutata affettuosità, ma lo sguardo ansioso e crucciato degli occhi di papà Baer feriva Nat fino in fondo al cuore, perché egli amava teneramente il suo maestro e sapeva di aver deluso tutte le speranze con quella doppia colpa. C'era però una persona che credeva assolutamente in lui e lo difendeva con coraggio contro tutti gli altri, Daisy. La bambina non avrebbe saputo dire perché fosse persuasa della sua innocenza a dispetto delle apparenze. Sentiva solo che non poteva dubitare di lui. E la sua calda simpatia la induceva a prenderne risolutamente le parti. Non permetteva a nessuno di dire una parola contro Nat e arrivò a dare uno schiaffo al suo dorato Demi perché tentava di convincerla che era certo stato Nat, dato che nessun altro sapeva dove si trovasse il denaro. «Lo avranno mangiato le galline! Sono così ingorde!» disse. E siccome Demi rise, perse la pazienza, schiaffeggiò il fratello, sbalordito, e poi scoppiò in lacrime, correndo via, continuò ancora a protestare. «Non è stato lui! Non è stato lui!» Né la zia né lo zio tentarono di scuotere quella sua fede nel piccolo amico, augurandosi solo che il suo innocente istinto potesse avere ragione, e le vollero ancora più bene. Nat ebbe spesso a dire, quando tutto fu finito, che non avrebbe potuto resistere se non fosse stato per Daisy. Se gli altri lo evitavano, ella gli stava vicino, voltando loro le spalle. Se egli cercava conforto nel vecchio violino, la bimba non sedeva più sulla scala, ma entrava nella classe e gli si metteva accanto, ascoltando con un'espressione così piena di fiducia e di affetto che Nat dimenticava per un poco le sue sventure ed era felice. Lo pregava di aiutarla a studiare, gli preparava nella sua cucinetta delle pietanze straordinarie che gli mandava giù stoicamente perché la gratitudine dava un dolce sapore anche alle più disgustose. Gli proponeva inverosimili partite a cricket o alla palla quando vedeva la sua ripugnanza a unirsi con gli altri ragazzi. Gli metteva sul tavolo mazzolini del suo giardinetto e tentava in ogni modo di dimostrargli che lei non era un'amica solo dei giorni felici, ma era fedele anche di fronte a una cattiva reputazione. Nan seguì subito il suo esempio, almeno per quanto si riferiva a trattare gentilmente Nat. Teneva a freno la sua lingua affilata e il suo nasetto sprezzante si astenne da ogni dimostrazione di dubbio o di antipatia, il che era meritevole da parte di Madamigella Sventatelli, se si pensa che era fermamente persuasa della colpevolezza di Nat. Alcuni dei ragazzi lo evitavano rigorosamente, mentre Dan, pur dicendo di disprezzarlo per la sua codardia, lo gratificava di una specie di burbera protezione, pronto a picchiare chiunque osasse molestarlo o minacciarlo. Il suo concetto dell'amicizia non era meno alto di quello di Daisy, e nella sua rude maniera gli serbava fede, lealmente. Un pomeriggio, mentre sedeva presso il ruscello intento a studiare i costumi dei ragni acquatici, colse al volo un brano di conversazione dall'altra parte del muretto. Ned, con la sua natura investigatrice, era sui carboni ardenti per scoprire chi veramente fosse il colpevole. Perché qualcuno dei ragazzi cominciava ad avere dei dubbi sulla colpevolezza di Nat. Con tanta tenacia gli persisteva a negare e con tanta pazienza sopportava il loro abbandono. Questo dubbio era divenuto un tormento insopportabile per Ned e spesso aveva assediato Nat di domande senza tenere conto dell'esplicito divieto del signor Baer. Trovandolo ora seduto tutto solo a leggere all'ombra del muro, non poté resistere alla tentazione di fermarsi per una chiacchieratina sull'argomento proibito. Lo stava già tormentando da una decina di minuti prima che arrivasse Dan e le prime parole che udì lo studioso dei ragni furono queste, dette da Nan con voce paziente e supplichevole. «No, Ned, no, non posso dirtelo perché non lo so, e tu fai male a tormentarmi sempre di nascosto, mentre papà Baer vi ha proibito di farlo. Non ne avresti il coraggio se ci fosse Dan.» «Io non ho paura di Dan, è soltanto uno spaccone. Deve averlo preso lui il denaro di Tom, e tu lo sai e non lo vuoi dire. Via, sputa fuori.» «Non l'ha preso lui, ma se anche l'avesse fatto io lo sosterrei lo stesso perché è stato sempre così buono con me», disse Nat con tale ardore che Dan si alzò in fretta per ringraziarlo, dimenticando i suoi ragni. Ma le ultime parole di Ned lo inchiodarono sul posto. «Io so che è stato Dan, e poi ha dato il denaro a te. Non mi stupirei che prima di venire qui avesse fatto il borsaiolo. Nessuno sa nulla di lui fuorché tu.» Ned, ben inteso, non credeva una parola di quel che diceva, ma sperava di cavargli fuori la verità facendolo stizzire. E riuscì in parte in questo poco generoso proposito, perché Nat gridò furibondo: Se lo ripeti, andrò a ridire tutto a papà Baer. Non mi piace fare la spia, ma per Bacco lo farò se non lasci in pace Dan. E allora sarai un vigliacco, oltre che un bugiardo e un ladro, cominciava Ned con aria di scherno, perché Nat aveva sopportato gli insulti rivolti a lui con tanta pazienza che egli non lo credeva capace di affrontare il loro maestro solo per sostenere Dan. Io non posso dirvi che cosa avrebbe aggiunto, perché non aveva finito di pronunziare quelle prime parole che un lungo braccio sbucato alle sue spalle lo afferrò per il colletto. E, facendogli descrivere un arco al di sopra del muricciolo, lo tuffò in mezzo al ruscello. «Ripeti quello che hai detto e ti terrò sotto finché non ci vedrai più!» gridò Dan, simile a un moderno colosso di Rodi. Con un piede di qua e uno di là dello stretto ruscello, lanciando occhiate di fuoco al vinto immerso nell'acqua. «Ma io scherzavo!» disse Ned. «Tu sì che sei un vigliacco a tormentare Nat quando nessuno ti vede. Lascia che ti ci pigli un'altra volta e ti scaravento nel fiume. Su, esci fuori e fila via!» urlò Dan infuriato. Ned scappò tutto sgocciolante e quell'improvviso semicupio dovette fargli bene, perché in seguito trattò con rispetto i due ragazzi e parve che avesse lasciato la sua curiosità nel ruscello. Appena fu scomparso, Dan balzò dall'altra parte del muretto e trovò Nat buttato a terra, vinto dalle sue tribolazioni. «Vedrai che non ti seccherà più. Se no, basta che tu me lo dica e ci penserò io», assicurò Dan cercando di calmarsi. «Poco male quello che dice di me, ormai ci sono abituato», rispose Nat tristemente. «Ma non posso sopportare che ti attacchi». «Come fai a sapere che si sbaglia?» chiese Dan voltando il capo da un'altra parte. «Cosa? Per il denaro?» gridò Nat guardandolo sbalordito. «Sì, ma io non ci credo. Per te il denaro non conta. A te importano solo i tuoi insetti e roba simile», disse Nat ridendo con aria incredula. «Io ho voglia di una rete per le farfalle quanto tu di un violino. Perché non avrei potuto rubarlo io il denaro, tanto quanto tu?» disse Dan, sempre tenendo la testa voltata e occupatissimo in apparenza a far buchi nell'erba col suo bastone. «Io non ci credo. A te piace fare a pugni e qualche volta buttare la gente per terra, ma tu non dici bugie e non ti reputo capace di rubare», disse Nat scuotendo la testa con aria decisa. «Eppure ho fatto tutte e due le cose. Io prima ne dicevo un sacco di bugie, ora no perché qui fan troppe storie, e ho rubato negli orti per mangiare quando sono scappato da Page. Lo vedi dunque che sono una canaglia?» disse Dan, riprendendo quel suo modo rozzo e volgare di esprimersi dal quale si era disabituato. «Oh, Dan, non dire che sei stato tu. Preferirei che fosse stato chiunque degli altri ragazzi», gridò Nat con un tono così disperato che Dan parve contento e dimostrò la sua soddisfazione voltandosi di scatto con una curiosa espressione sul volto, ma si limitò a rispondere. «Io non dirò nulla, ma tu non te la prendere. Vedrai che in qualche modo ce la caveremo». C'era qualcosa nel suo volto e nelle sue maniere che fece balenare a Nat una nuova idea. E stringendosi le mani nell'ardore del suo appello, «Tu devi sapere chi è stato», disse. «Se è così, pregalo che confessi, Dan. È tanto duro per me sentirmi odiato da loro senza ragione. Non credo di poterlo sopportare ancora per un pezzo. Se sapessi dove andare, scapperei via. Sebbene voglia tanto bene a Plumfield, ma io non sono coraggioso e forte come te, e allora bisogna che resti qui e aspetti finché qualcuno dimostri che non ho mentito». Nat aveva un'aria così sgomenta e disperata che Dan non poté sopportarlo, e dopo aver mormorato bruscamente «Non dovrai aspettar molto», se ne andò in fretta e non si lasciò vedere per parecchie ore. «Chissà mai che cosa abbia Dan?» si chiedevano i ragazzi la domenica, al termine di una settimana che era parsa interminabile. Dan era spesso accigliato, ma quel giorno fu così serio e silenzioso che nessuno gli poté cavare una parola di bocca. Quando uscirono a passeggiare, si tenne lontano dagli altri e tornò a casa tardi. Non prese parte alla conversazione, ma rimase seduto in un angolo buio, così immerso nei suoi pensieri che pareva sentire appena quanto si diceva attorno a lui. Mamma Jo gli fece vedere una nota speciale di lode nel libro della coscienza, ma egli la lesse senza sorridere e disse con aria triste: «Vado migliorando, vero?» «Straordinariamente, Dan, e ne sono tanto contenta perché ho sempre pensato che un piccolo aiuto avrebbe potuto fare di te un ragazzo di cui andare superbi». Egli la guardò con una strana espressione nei suoi occhi neri. C'era orgoglio, affetto e dolore che ella allora non capì, ma di cui doveva ricordarsi in seguito. Ho paura che proverà una delusione, ma è necessario, disse, chiudendo il libro senza mostrare alcun piacere, mentre di solito lo leggeva così volentieri, discutendone poi il contenuto. Caro, non stai bene? Chiese mamma Jo posandogli una mano sulla spalla. Il piede mi fa un po' male. Forse farei meglio ad andare a letto. Buonanotte, mamma, disse premendosi per un attimo la mano di lei contro la guancia. Poi se ne andò con l'aria di chi abbia detto addio a qualcosa di molto caro. Povero Dan, prende così a cuore la disgrazia di Nat? È un ragazzo strano. Arriverò mai a capirlo completamente, disse fra sé mamma Jo, pensando con vera soddisfazione ai progressi che aveva fatti e riconoscendo che c'era in lui più di quanto non avesse a tutta prima sospettato. Una delle cose che aveva specialmente ferito Nat era stato il contegno di Tommy, il quale, dopo la sua disgrazia, gli aveva detto con garbo ma risoluto: «Io non voglio offenderti, Nat, ma tu capisci che non posso permettermi di perdere il mio denaro, quindi non credo più possibile che siamo soci». E aveva cancellato l'insegna T. Banks e compagni. Nat era stato così orgoglioso di quel E.C. e compagni, aveva dato abilmente la caccia alle uova, tenuto in perfetta regola i conti e aggiunto una bella sommetta al suo reddito, vendendo la sua parte della merce. «Oh, Tom, davvero?» aveva detto, conscio che ciò significava perdere per sempre la sua reputazione nel mondo degli affari. «È necessario», aveva risposto l'altro con tono fermo. «Emil dice che quando uno fa una malversazione, credo che si dica così, cioè prende i soldi e alza i tacchi, sui fondi di una ditta, l'altro lo cita e gli dà addosso in qualche modo e non vuole più avere nulla a che fare con lui. Ora tu hai malversato la mia proprietà. Io non ti cito né ti do addosso, ma debbo sciogliere la società perché non posso fidarmi di te e non voglio fallire. Io non posso obbligarti a fidarti di me e tu non vuoi prendere il mio denaro? Ma io ti avrei dato volentieri tutti i miei dollari, purché tu ti fossi convinto che non sono stato io. Lasciami cercare ancora le uova, non ti chiederò nessun salario. Lo farò gratis, io conosco tutti i posti e mi piace tanto», supplicava Nat. Ma Tommy aveva scosso il capo, e la sua bella faccia rotonda aveva un'espressione dura e sospettosa, mentre rispondeva in tono secco: «Impossibile, mi rincresce anzi che tu conosca i posti. Bada bene di non cercarle di nascosto e di non speculare sulle mie uova». Il povero Nat non poteva mandarla giù. Capiva di aver perso il suo socio e protettore, di essere anche rovinato nell'onore ed espulso dal mondo degli affari. Nessuno credeva alla sua parola, scritta o orale, nonostante gli sforzi fatti per redimere la poca sincerità del passato. L'insegna era stata tolta, la ditta sciolta e lui era un uomo rovinato. Il capannone, che era la Wall Street dei ragazzi, non lo vide più. Ciuffettina e le sue sorelle chiocciavano per lui invano e pareva che realmente si prendessero a cuore la sua sventura, perché ora c'erano meno uova e alcune delle galline si ritiravano disgustate a covare in posti ignoti a Tommy. «Loro si fidano di me», disse Nat quando lo seppe. E sebbene tutti i ragazzi ridessero fragorosamente a quell'idea, egli trovò in essa un conforto, perché quando uno è a terra, anche la fiducia di una gallina è una consolazione. Tommy, però, non si prese un nuovo socio, perché il dubbio era entrato nella sua anima, prima così fiduciosa, avvelenandone la pace. Ned offerse di associarsi a lui, ma gli rifiutò, dicendo con un senso di giustizia che gli faceva onore: «E se venisse fuori che Nat non ha preso il mio denaro? Allora potremmo ritornare soci, e non credo che succederà, ma voglio lasciargli una porta aperta e tenere il posto a sua disposizione ancora per un po'». L'unico di cui Banks sentì di potersi fidare fu Billy, che imparò a cercare le uova e a consegnarle senza romperle, contentandosi come compenso di una mela o di un biscotto. La mattina che seguì alla triste domenica di Dan, Billy disse al suo principale, mostrandogli i risultati di una lunga ricerca: «Due sole. Si va di male in peggio. Non ho mai visto delle galline così dispettose», brontolò Tommy, pensando al tempo in cui aveva la gioia di vederne sei. «Beh, Mettile nel mio cappello e dammi un altro pezzo di gesso. Devo comunque segnarle. Billy salì su uno staio per guardare dentro la macchina dove Tommy teneva il suo materiale di cancelleria. Quanti soldi, disse. No, che non c'è. Non mi ci pigliate più a lasciare in giro il mio denaro, ribatté Tommy. Ma se li vedo, 1, 4, 8, 2 dollari, insistette Billy, che non aveva ancora fatto amicizia coi numeri. Che scemo sei! E Tommy spiccò un salto per prendere il gesso. Ma per poco non fece un capitombolo perché c'erano realmente 4 lucide monete in fila, accompagnate da un pezzetto di carta con su scritto Tom Banks, così che non poteva esservi errore. Tuoni e fulmini! Gridò prendendo le monete e si precipitò in casa urlando come un pazzo. Tutto è a posto, ho riavuto il mio denaro, dov'è Nat? Lo trovarono subito e la sua sorpresa e la sua gioia erano così sincere che ben pochi dubitarono ancora della sua parola quando affermò di non saperne nulla. Come potrei averlo rimesso io se non l'avevo preso? Credetemi ora e siate di nuovo buoni con me, disse in tono così supplichevole che Emil gli dette una manata sulla schiena dichiarando che quanto a lui ci credeva. Anch'io, e son proprio contento, ma chi diamine sarà stato? Disse Tommy dopo avergli dato una cordiale stretta di mano. Poco importa dal momento che il denaro si è trovato, disse Dan tenendo lo sguardo fisso sul viso felice di Nat. Beh, questa è bella. Mica mi piace che la mia roba sia sgraffignata e poi ricompaia come nel gioco dei busolotti, esclamò Tommy, guardando le sue monete con l'aria di sospettarvi qualche stregoneria. Prima o poi lo scopriremo, ma deve essere un furbone se ha scritto in stampatello perché non si riconoscesse la calligrafia, osservò Franz, esaminando il foglietto. Demi per lo stampatello è famoso, interloquì Rob, che non capiva bene di che cosa si trattasse. Non potrai farmi credere che sia stato lui, no? Neanche se tu parlassi fino a restare senza fiato, disse Tommy in mezzo alle violente proteste generali, perché il piccolo diacono, come lo chiamavano, era al di sopra di ogni sospetto. Nat avvertì la differenza fra come parlavano di Demi e come parlavano di lui, e avrebbe dato quanto aveva e persino quanto sperava di poter avere per godere altrettanta fiducia. Avendo imparato a sue spese come si fa presto a perderla e quanto è difficile riconquistarla, comprese che prezioso tesoro sia la verità e quanto caro costi trascurarla. Papà Baer era molto contento di quel primo passo sulla giusta via e aspettava fiducioso ulteriori rivelazioni. E queste giunsero prima di quanto si aspettasse, ma in un modo che lo sorprese e lo addolorò molto. Quella sera, mentre erano a cena, gli fu consegnato un pacchetto da parte di una vicina, la signora Babes. C'era anche un biglietto e mentre lo leggeva, Demi, che aveva aperto il pacco, esclamò, vedendone il contenuto: «Ma questo è il libro che lo zio Teddy ha dato a Dan!» «Al diavolo!» interruppe questi, che nonostante tutta la sua buona volontà non si era completamente corretto dal vizio di imprecare. Il signor Baer gli alzò subito gli occhi in viso e Dan, dopo aver invano tentato di sostenere il suo sguardo, abbassò la testa e si morse le labbra arrossendo sempre più fino a divenire la vivente immagine della vergogna. «Che c'è?» chiese ansiosamente mamma Baer. «Avrei preferito non parlarne in pubblico, ma Demi ha guastato il mio piano, quindi tanto vale che dica ora di che si tratta», rispose papà Baer con l'aria seria che assumeva sempre di fronte a un'azione bassa o a un inganno. «Il biglietto è della signora Babes. Dice che il suo figliolo Jimmy ha comperato sabato scorso questo libro e che essa me lo rimanda avendo visto che vale molto più di un dollaro e pensando che vi sia un errore. L'hai venduto tu, Dan?» «Sì, signore», rispose il ragazzo a bassa voce. «Perché?» «Avevo bisogno di denaro». «Per far cosa?» «Per pagare uno». «A chi lo dovevi?» «A Tommy». «Ma se non si è mai fatto prestare un soldo da me», esclamò Tommy, che cominciava a immaginare il seguito e dopo tutto avrebbe preferito la stregoneria perché ammirava immensamente Dan. «Sarà stato lui a prenderlo», gridò Ned, che ce l'aveva per quel bagno ed essendo un ragazzo di questo povero mondo era contento di fargliela pagare. «Oh, Dan», gridò Nat, stringendo le mani senza badare alla fetta di pane imburrato che teneva. «È doloroso, ma bisogna che io venga a capo di questa faccenda. Non posso permettere che continuiate a spiarvi a vicenda come tanti investigatori e che tutta la scuola sia sconvolta in questo modo. Sei stato tu a mettere il dollaro nel capannone questa mattina? Chiese signor Baer. Dan lo guardò ben diritto negli occhi e rispose con voce ferma: Sì, sono stato io. Un mormorio corse attorno alla tavola. Tommy lasciò cadere con fracasso la sua ciotola del latte. Daisy gridò: Lo sapevo che non era stato Nat! Nat si mise a piangere e la signora Joe uscì dalla stanza con un'aria così delusa, triste e mortificata che Dan non poté resistere. Nascose per un attimo la faccia fra le mani, poi rialzò il capo, raddrizzò le spalle come per disporsi a portare un gran peso e disse con l'aria scontrosa e il tono fra risoluto e indifferente che aveva usato al suo arrivo: Sono stato io. Ora fate di me quello che volete, ma non mi caverete più una parola di bocca su questo argomento. Neppure per dire che te ne penti? Chiese il signor Baer, turbato da quel repentino cambiamento. Non me ne pento. Io gli perdono senza che me lo chieda, disse Tommy, sentendo che in certo modo era più penoso vedere svergognato l'audace Dan che non il timido Nat. Non voglio essere perdonato, ribatté l'altro brusco. Forse cambierai idea dopo averci ripensato. Non ti dirò ora quanto io sia sorpreso e deluso, ma fra poco salirò nella tua camera e ne parleremo. Non servirà a nulla, disse Dan, che cercò di assumere un tono di sfida, senza però riuscirci, di fronte alla tristezza dipinta sul volto di papà Baer, e prendendo le sue parole come un congedo, lasciò la stanza, quasi gli riuscisse insopportabile restarvi. E invece sarebbe stato bene per lui se fosse rimasto, perché i ragazzi discussero la cosa con tale sincero rammarico, tale compassione e stupore, che ne sarebbe stato commosso e indotto a chiedere perdono. Nessuno era contento di avere scoperto in lui il colpevole, neppure Nat. Nonostante i suoi difetti, che non erano pochi, tutti ora gli volevano bene, perché sotto l'esteriore rozzezza c'erano alcune di quelle maschie virtù che tanto ci attirano e tanto amiamo. Mamma Jo era stata il sostegno principale di Dan, non meno che la sua educatrice, e soffriva indicibilmente che il suo ultimo ragazzo, e il più interessante, avesse fatto una cosa così cattiva. Il furto era già una gran brutta cosa, peggio ancora la menzogna che vi si aggiungeva e l'aver lasciato che un altro soffrisse tanto sotto un ingiusto sospetto. Ma la cosa più scoraggiante era quel tentativo di restituire il denaro con un sotterfugio, che dimostrava non solo mancanza di coraggio, ma anche una dose di furberia che giustificava ben tristi previsioni per l'avvenire. E anche più penoso era il suo deciso rifiuto di parlare della cosa, di chiedere perdono o di manifestare un po' di rimorso. I giorni passavano ed egli continuava a studiare e a lavorare, taciturno, arcigno, senza dar segno di pentimento. Quasi prendendo norma dal contegno tenuto con Nat, non sollecitava la simpatia di nessuno, respingeva ogni tentativo dei ragazzi di avvicinarsi a lui e passava le ore libere girovagando per i campi e per il bosco, cercando la compagnia degli uccelli e degli animali e riuscendovi meglio di ogni altro perché li conosceva bene e li amava. Se le cose continuano così ancora per un pezzo, ho paura che scapperà di nuovo perché è troppo giovane per resistere a una vita simile, disse il signor Baer scoraggiato per l'insuccesso di tutti i suoi sforzi. Fino a poco tempo fa sarei stata sicura che nulla più avrebbe potuto indurlo ad andarsene, ma ormai sono preparata a tutto, è così cambiato, rispose la povera mamma Jo, la cui afflizione non trovava conforto perché Dan la evitava più di ogni altro, e se la tentava di parlargli da sola a solo, la guardava con gli occhi tra feroci e supplichevoli di un animale selvatico preso in trappola. Nat lo seguiva come un'ombra, e Dan non lo rispingeva rudemente come faceva con gli altri, ma diceva: «Tu ora sei a posto, non ti preoccupare, perché io posso resistere meglio di te». «Ma mi fa pena che tu sia così solo», diceva Nat tristemente. «A me piace». E Dan si allontanava, soffocando talvolta un sospiro, perché sentiva realmente la sua solitudine. Un giorno, passando per il boschetto di betulle, si imbatté in alcuni dei ragazzi che si divertivano ad arrampicarsi sugli alberi e a lasciarsi dondolare sospesi ai rami flessibili ed elastici che si chinavano fino a toccare il suolo con la punta. Si fermò un momento a guardarli, senza proporre di prendere parte al divertimento. E proprio allora fu la volta di Jack, che disgraziatamente aveva scelto un ramo troppo grosso e quando si lasciò penzolare quello non si piegò abbastanza ed egli rimase sospeso a un'altezza pericolosa. «Torna su, non puoi saltare!» gridò Ned di sotto. Jack tentò di risalire, ma i rami gli scivolavano dalle mani e non riusciva ad afferrarsi al tronco con le gambe. Dopo aver scalciato, sgambettato e cercato invano di attaccarsi, si dette per vinto e rimase appeso, ansante, invocando disperatamente aiuto. «Prendetemi! Aiutatemi! Voglio saltare giù!» «Se lo fai, ti ammazzi!» gridava Ned, quasi pazzo per lo spavento. «Tienti forte!» urlò allora Dan e si arrampicò sull'albero aprendosi la via fra i rami fin quasi a raggiungere Jack che lo guardava pieno di paura e di speranza. «Cascherete tutti e due!» disse Ned, saltando per l'eccitazione sul declivio sottostante mentre Nat stendeva le braccia nella pazza speranza di arrestare la caduta. «È proprio quel che voglio! Levati di lì sotto!» rispose Dan freddamente. E mentre parlava, il suo peso aggiunto fece chinare il ramo di parecchi piedi. Jack saltò a terra, sano e salvo, ma la betulla, alleggerita di metà del suo peso, si risollevò così improvvisamente che Dan, nell'atto di allungarsi per cadere in piedi, si lasciò sfuggire il ramo e precipitò malamente. «Non mi son fatto nulla, fra un minuto sarò a posto», disse, mettendosi a sedere un po' pallido e stordito, mentre i ragazzi lo circondavano ammirati e spaventati. «Tu sei un asso, Dan, e io ti devo essere grato davvero», esclamò Jack in uno slancio di gratitudine. «Nulla, nulla», brontolò Dan, sollevandosi lentamente. «Come nulla? Io voglio stringerti la mano, anche se sei un...» Ned trattenne la brutta parola sulla punta della lingua mentre tendeva la mano con la coscienza di fare un atto assai bello. «Ma io non voglio stringerla a un vigliacco!» E Dan gli voltò le spalle con uno sguardo sprezzante che ricordò a Ned il ruscello e lo fece ritirare con fretta indecorosa. «Vieni a casa, vecchio mio, ti darò io una mano», disse Nat. E si allontanò con lui, lasciando gli altri a ragionare dell'accaduto, a chiedersi quando Dan tornerebbe quello di prima e a desiderare tutti che quel maledetto denaro di Tommy fosse andato all'inferno prima di provocare un guaio simile. La mattina dopo, papà Baer entrò in classe con un volto così raggiante che sbalordì i ragazzi e lo credettero addirittura impazzito quando lo videro andare dritto a Dan e prendendogli le due mani e scuotendogliele disse cordialmente: «So tutto e ti chiedo perdono. È stato un atto degno di te, io ti voglio anche più bene, ma non si devono mai dire bugie, neppure per amore di un amico». «Che è stato?» chiese Nat, perché Dan non aveva detto una parola, ma solo alzato il capo come se un peso gli fosse caduto dalle spalle. «Dan non ha preso il denaro di Tommy», disse il signor Baer, quasi gridando, tanto era felice. «E chi è stato?» chiesero in coro i ragazzi. Il professore indicò un posto vuoto, e tutti gli occhi seguirono il suo dito. Ma tuttaprima nessuno trovò parole per la sorpresa. Jack è tornato a casa sua stamattina presto, ed ecco che cosa ha lasciato. E nel silenzio generale, egli lesse il biglietto che aveva trovato attaccato alla maniglia della porta, uscendo di camera. «Sono stato io a prendere il denaro di Tommy. Spiavo da una fessura e l'ho visto quando ce l'ha messo. Non avevo il coraggio di dirlo, sebbene lo desiderassi, mi importava poco di Nat. Ma Dan è un asso, e io non posso più tacere. Non ho speso il dollaro. È sotto il tappeto in camera mia, dietro al lavabo. Sono tanto spiacente. Vado a casa e non credo che tornerò più, quindi Dan può prendersi la mia roba. Jack». Non era una confessione molto elegante, era scritta male, breve e con molti scarabocchi, ma rappresentava un documento prezioso per Dan. E quando papà Baer tacque, il ragazzo gli si avvicinò e gli disse con voce incerta ma con sguardo limpido e franco, nella forma rispettosa che avevano cercato di insegnargli: «Ora lo dico che sono spiacente, la prego di perdonarmi, signore. È stata una bugia non cattiva, Dan, e io non posso non perdonartela. Ma vedi che non è servita a niente?» disse papà Baer ponendogli le mani sulle spalle con un'espressione d'affetto e di sollievo sul volto. «Era perché i ragazzi non tormentassero Nat. Lui ci soffriva tanto mentre io lo sopportavo meglio», spiegò Dan felice di parlare dopo quel doloroso silenzio. «Come hai potuto? Sei sempre tanto buono con me», balbettò Nat, che aveva una voglia matta di stringere fra le braccia il suo amico e di piangere. due bambinate che certamente avrebbero scandalizzato Dan. «Ora va tutto bene, vecchio mio, dunque non fare lo scemo, eh?» disse l'altro, mandando giù il nodo che lo serrava la gola e ridendo come non faceva più da tanto tempo. «La signora lo sa?» chiese poi ansiosamente. «Sì, ed è così felice che non so che cosa vorrà farti», cominciava il signor Baer, che non poté continuare perché i ragazzi si affollavano attorno a Dan in un tumulto di gioia e di curiosità. Ma prima che egli avesse potuto rispondere a più di una dozzina di domande, una voce gridò «Tre urrà per Dan!» e la signora Joe comparve sulla soglia, sventolando un canovaccio di cucina, con l'aria di voler ballare per la gioia una di quelle gighe che erano la sua specialità quando era una ragazzetta. «A noi ora!» gridò papà Baer e lanciò un urrà così fragoroso che fece sobbalzare Asia in cucina, mentre il vecchio signor Roberts, che passava in carrozza, scuoteva il capo dicendo «Ah, come son cambiate le scuole da quando ero giovane!» Dan resistette abbastanza bene per un minuto, ma la gioia di mamma Jo lo sconvolse talmente che scappò dall'atrio nel salotto, dove ella subito lo seguì e per una buona mezz'ora nessuno dei due ricomparve. Papà Baer trovò assai difficile calmare l'eccitamento dei ragazzi. Vedendo quindi che era impossibile pensare a far lezione, narrò loro la bella storia antica dei due amici immortalati dalla loro reciproca fedeltà. I ragazzi l'ascoltarono attentamente e non la dimenticarono più, perché erano appunto commossi dal caso di un più umile paio di amici. La bugia è certo una brutta cosa, ma l'affetto che l'aveva dettata e il coraggio con cui Dan aveva sopportato in silenzio la vergogna per un altro ne fecero un eroe ai loro occhi. L'onestà e l'onore avevano acquistato per loro un nuovo significato. Una fama intemerata valeva più dell'oro, perché, una volta persa, il denaro non poteva restituirla, e la fede scambievole rendeva la vita piena e felice più di ogni altra cosa. Tommy tornò a scrivere tutto fiero il nome della ditta, Ned era devoto a Dan e tutti i ragazzi cercavano di compensarli dei sospetti e dell'abbandono di prima. Mamma Jo era felice dei suoi figlioli e papà Baer non si stancava di raccontare la storia dei suoi giovani, Damone e Pizia.